guardie o ladri? Di Roberto Galullo. Buonasera e benvenuti all'ascolto di Guardie o Ladri. Questa sera terza ed ultima puntata del nostro piccolo viaggio attraverso il mondo del pentitismo, in particolar modo del pentitismo in terra di Calabria, quindi tra coloro i quali hanno fatto parte o sono stati vicini al mondo dell''ndrangheta. Lo facciamo perché è la consorteria criminale più potente al mondo. Nella prima puntata abbiamo avuto ospite un avvocato, Claudia Conidi, nella seconda un magistrato, il dottor Fumo, prima in direzione di settore antimafia a Napoli, ora in Cassazione. Nella terza e ultima puntata avremo invece ospite il senatore dell'Italia dei Valori, Luigi Ligotti, avvocato già difensore di pentiti storici come Totuccio Contorno, Giovanni Brusca e Tommaso Buscetta. Buonasera Ligotti. Buonasera. Allora, la prima domanda che le vorrei fare è, diciamo così, una malizia che proviene dal giornalista, ma che è anche suffragata da ciò che noi abbiamo ascoltato nei pentiti che abbiamo intervistato in queste settimane. Vale a dire, non è che il pentito è credibile quando racconta di fatti all'interno delle cosche e diventa meno credibile, quindi più attaccabile, più vulnerabile, con tutto quel che ne consegue, quando comincia a toccare il livello politico. Qual è la sua sensazione? Ma questa sua osservazione è abbastanza fondata, ma non è un problema di credibilità, è un problema di difficoltà di acquisire gli elementi a riscontro, cioè alcuni livelli di confidenze, di rivelazioni sono più difficili da dimostrare in sede processuale. E quindi ci vuole molta più accortezza, l'indagine è molto più difficile. Ecco. Quindi io non penso che ci sia un pregiudizio rispetto al tipo di dichiarazione. C'è una difficoltà da parte degli inquirenti rispetto ad alcuni scenari su livelli diversi delle organizzazioni criminali, livelli di collusione, che rende più difficile l'indagine. Ecco, senatore, vorrei chiederle questo: come mai da alcuni mesi a questa parte noi stiamo assistendo ad una levata di scudi, proteste da parte di persone che si sono pentite, quindi sono messe da parte della giustizia, o di persone che sono invece fuoriuscite da un programma di protezione perché stanche di essere trattate dallo Stato in maniera, loro dicono, indegna, tanto economicamente, ma quanto proprio dal punto di vista della vita che conducono. Ecco, perché oggi si giunge a questo punto che forse può essere anche un punto di svolta? A mio parere si è passato da un eccesso all'altro, cioè alcuni anni fa, ma diversi anni fa, si era avviato addirittura un programma di forte ricapitalizzazione delle indennità che lo Stato riconosceva ai collaboratori di giustizia, e ci sono stati in alcuni casi, in 9 casi, delle liquidazioni e capitalizzazioni esorbitanti, obiettivamente. La stretta che è intervenuta con la legge di riforma nel 2000 ha indubbiamente molto ridimensionato la possibilità di concedere congrui aiuti economici ai collaboratori. Ecco, questo però può essere un freno a chi volesse fuoriuscire dalla criminalità organizzata e cominciare a collaborare con lo Stato, perché poi non dimentichiamo che molte di queste persone, soprattutto quando arrivano al top della cosca, dell''ndrina o del clan, poi conducono anche una vita che economicamente è una vita senza alcun tipo di preoccupazione. Sì, questo sì, è una denuncia che anche recentemente è stata ufficializzata dal procuratore nazionale antimafia, il dottor Grasso, è venuto in commissione giustizia, ha depositato un documento in cui denuncia indubbiamente come la normativa esistente sia poco incentivante per le collaborazioni, sia in termini economici sia in termini di trattamento premiale. E questo indubbiamente comporta una difficoltà a facilitare questo tipo di collaborazione estremamente importante nella lotta al crimine organizzato. Ecco, mi fa piacere pensarla esattamente come lei e pensarla come il procuratore Pietro Grasso. Senza pentiti, senza collaboratori di giustizia, senza testimoni di giustizia, la lotta alla mafia diventa indubbiamente più complessa. Senatore Li Gotti, le chiedo questo. Personalmente ritengo che le mafie siano scomparse dall'agenda dei partiti italiani, tanto in campagna elettorale quanto in questi primi mesi di legislatura. I motivi sono tanti, più disparati, ma certamente sono poco, come dire, apprezzabili, qualunque sia la giustificazione. Le chiedo, lei ha una vita politica che testimonia invece il contrario e milita in un partito che si chiama l'Italia dei Valori. Ovviamente io non sposo partiti, non lo faccio mai, non l'ho mai fatto, non lo farò, però le chiedo, un partito come il suo e lei personalmente oggi, quindi non parliamo di ieri né di quello che farete fra un anno, ma oggi, qualcosa di concreto per riportare il tema dei pentiti all'ordine del giorno della politica italiana, lo avete oppure no? Ma ci sono degli interventi che possono essere diretti e altri che sono indiretti. Gli interventi diretti sono quelli di consentire quello che la legge obiettivamente prevedeva come finalità, la possibilità ossia del reinserimento sociale dei collaboratori. Poi parliamo anche dei collaboratori che non hanno alcuni passato criminale, cioè i testimoni semplici. Certo, certo, certo, certo. Che sono quelli più vessati da questa situazione dal momento che non trovano facilità di inserimento, costretti ad allontanarsi dal territorio perché la loro vita è a rischio a causa della collaborazione, sparsi in altre regioni d'Italia senza collegamenti affettivi, amicali, con grossi problemi familiari. Ora, indubbiamente il problema dell'inserimento è il grosso problema. Ecco, ma voi effettivamente qualcosa state facendo oppure state rimandando anche voi nella vostra agenda questo tema proprio per la difficoltà di parlare di mafia? No, in Italia oggi si parla di tutto, ma di mafia non si parla, di mafie intendo dire, non soltanto. Si va a ondate, no? Si parla dei casalesi, però strutturalmente, organicamente sembra quasi dimenticato il fenomeno. Guardi, noi abbiamo pensato di intervenire con delle proposte normative, con dei disegni di legge che sono stati già presentati sia alla Camera che al Senato, proprio a mia firma al Senato, per prevedere la facilitazione per i testimoni, quindi non chi ha un passato criminale sottoposto a procedimenti penali che sono in corso e quindi rende più difficile questa soluzione, ma prevedere per i testimoni di giustizia la possibilità di trovare accesso nella pubblica amministrazione in modo da assicurargli una possibilità di sviluppo sia familiare che sociale. E questo è sacrosanto ed è giusto proprio perché noi abbiamo sentito anche i nostri ospiti, coloro i quali ci hanno raccontato le loro storie di pentiti di 'ndrangheta che vivono proprio quello dell'inserimento sociale come il peggiore dei drammi, non tanto per se stessi, perché ovviamente non hanno più niente da chiedere probabilmente alla stessa vita, quanto per i familiari. Abbiamo addirittura sentito un pentito che ci raccontava che i figli non possono fare concorsi pubblici perché questo li penalizzerebbe, ma soprattutto li renderebbe visibili agli occhi delle cosche che, come lei sa perfettamente, non dimenticano e che quindi possono colpire come quando vogliono. Il problema è che la legge prevede la possibilità del cambio delle generalità, però questo istituto viene applicato col contagocce. Male e con difficoltà, aggiungerei. No, direi che viene applicato col contagocce, nel senso che non è diventato sistema. Il collaboratore, la prima cosa, la prima tutela del collaboratore è il cambio delle località dove vive, ma anche il cambio delle generalità. Per lui è un motivo di tutela, ma anche per il proprio gruppo familiare. È giustissimo. Noi abbiamo i figli dei collaboratori che in casa si chiamano in un modo e nelle scuole in un altro. Certo. C'è questa doppia personalità che determina anche delle conseguenze a livello di equilibrio dei minori. Ci sono stati diversi casi che sono stati anche affrontati sotto questo aspetto. Ora, il cambio delle generalità è uno strumento assolutamente necessario. Indispensabile, oserei aggiungere. Senatore Li Gotti, io la ringrazio per il suo intervento e ovviamente le auguro buon lavoro in Parlamento. Guardie o ladri? Bentornati all'ascolto di Guardie o Ladri, chi vi parla è Roberto Galullo, subito la mail guardieoladri@radio24.it e il mio blog http://robertogalullo.blog.ilsole24ore.com. Oggi terza e ultima puntata del nostro viaggio attraverso i pentiti di 'Ndrangheta. Nelle tre puntate precedenti abbiamo ascoltato, oltre dei tecnici, anche delle storie di pentiti di 'Ndrangheta. Ebbene, oggi la terza e ultima storia, ancora una volta, per questioni di riservatezza e di tutela dell'incolumità fisica del nostro ospite, siamo obbligati a non svelare l'identità e a chiamarlo quindi con un nome di fantasia. Buonasera Giulio. Buonasera a voi, buonasera a tutti gli radio ascoltatori. Allora, Giulio ha circa 40 anni, è calabrese, è stato in regime di protezione dallo Stato per circa 6 anni. Ecco, le chiedo Giulio, lei che cosa faceva nella gerarchia, qual era il posto che occupava, diciamo così, nella gerarchia della criminalità organizzata nella sua terra? Io facevo rapine in autostrada, traffico di cocaina, cioè nel senso che la vendevo quantitativi 100 grammi, mezzo chilo e così via. Quindi diciamo così che era un uomo a disposizione di una cosca? Sì. E per questa cosca lei faceva ciò che le chiedevano? Sì. Ecco, lei è stato arrestato e condannato a quanti anni ad un certo punto della sua vita? Ma guardi, io è 13 anni e mezzo che sto soffrendo, diciamo, tra detenzione e arresti, cioè, mi perdoni, affidamento in prova e detenzione in carcere. Ho capito, quindi tra il carcere e fuori dal carcere sono 13 anni e mezzo che ha questo tipo di vita, certamente poco, come dire, invidiabile, anzi. Le chiedo, lei dove vive? Ovviamente non voglio sapere la località esatta, ma vive ancora in Calabria o è fuori dalla Calabria? Assolutamente no, sono fuori in Alta Italia. Ecco, perché ha deciso di collaborare con lo Stato, Giulio? Ma io ho deciso di collaborare anzitutto da libero cittadino e non da persona indagata e né niente. Da quando è nata mia figlia ho voluto cambiare per dare un futuro, un tenore di vita dignitoso, non dico meglio degli altri, ma quantomeno uguale agli altri bambini. Lei in questo momento in Alta Italia vive con le sue generalità, suo nome e cognome, oppure è ovviamente una persona assolutamente sconosciuta ai più e quindi nessuno sa del suo passato? No, io vivo con diciamo le mie generalità, però dove io mi trovo nessuno sa il mio passato e diciamo i miei problemi con la giustizia. La cosca della quale lei faceva parte o comunque alla quale era affiliato in questi anni è venuta a cercarla? Beh, io ho subito delle minacce sui propri figli, però questo l'ho fatto per venire all'antimafia e sinceramente non so da chi perveniva, minacce ne ho ricevute, quantomeno intimidazioni, però diciamo che sono cose abbastanza delicate e mi volevano intimorire. Ecco. Ha fatto mai nomi di politici come beneficiari di traffici loschi sporchi ai quali lei ha assistito o ha partecipato? Assolutamente no, non ho mai avuto modo, diciamo, di assistere o tantomeno deportato. Un'altra domanda a questo punto le faccio. Lei rifarebbe la scelta che ha fatto? Sin- sinceramente no, guardi, mi creda. Ecco, mi spieghi il perché, spieghi a me e ai nostri radioascoltatori, ecco, ovviamente. Il perché, perché prima lo Stato ti usa e poi te gente a mezzo alla strada, ti abbandona, ti lascia nella miseria, non solo ti lascia nella miseria, ma ti fa, in pratica, quando hai finito di collaborare ti arrestano, ti portano in carcere. Cioè ti usano e ti gettano. Ecco, ma lei è uscito dal regime di protezione, quindi da un regime protetto da alcuni anni, ecco, però è stata una sua scelta, oppure invece spieghi com'è andata? No, non è stata una mia scelta, ma diciamo mi hanno capitalizzato per un, in pratica io ho avuto una capitalizzazione socio-lavorativa, in senso che l'inserimento socio-lavorativo per aprire un'attività. Lei ha ricevuto dei soldi per aprire una propria attività? Allora, 75.000 euro per aprire l'attività. Ho aperto l'attività, guardi il controsenso e la cosa che purtroppo lo Stato fa. Io con questo non voglio criticare, però voglio dire, ho collaborato, ho fatto il mio dovere fino in fondo. Quando vado ad aprire l'attività, dopo un mese mi arriva una lettera della provincia dicendo che io non posso esercitare il lavoro che stavo svolgendo, non voglio andare nei particolari, e dicendomi per i numerosi precedenti penali. Ma come? Cioè, lo Stato mi capitalizza 75.000 euro per aprire un'attività e dopodiché ho comprato quello che ho dovuto svendere tutto, sono andato in rovina, ho fatto debiti, sono stato protestato e così via. Mi sembra davvero una contraddizione in termini. Da una parte lo Stato le dice prego vai, e dall'altra un ente locale, vale a dire una provincia, le dice ma dove stai andando? Tu non puoi fare il commerciante. Purtroppo sono cose che non lo so. Ecco, certo, sicuramente fanno parte di una contraddizione che lo Stato dovrà certamente chiarire innanzitutto a se stesso. Una domanda ancora vorrei farle, ma lei, la sua storia, diciamo così, malavitosa, criminale, chiamiamola come vogliamo, ha delle radici in famiglia, oppure lei è stato, come dire, la prima, chiamiamola pecora nera, che ha infangato il nome della sua famiglia? Confermo quello che lei dice, la prima pecora nera, purtroppo ho sventurato una famiglia e sinceramente parlando ho sbagliato tantissimo nella vita, ho sbagliato tantissimo, ma con lo sbaglio che ho fatto ringrazio Dio e Padre Pio che sono devotissimo, che è nata mia figlia, mi ha fatto veramente cambiare e lavoro onestamente. E da quando ho voluto collaborare, che ho visto mia figlia, non ho mai avuto nessun tipo di reato e sono stato sempre più lontano possibile dai problemi. Ecco, e questo qui le fa sicuramente onore. Nel ringraziarla per la sua testimonianza, vorrei farle un'ultima domanda prima di darle il buonasera. Le ha mai chiesto di uccidere qualcuno? Assolutamente no, e non lo facevo neanche per tutto l'oro del mondo. Io lo facevo se mi faceva qualcuno male alla mia famiglia, senza dubbi, non avevo problemi, ma mai e poi mai per soldi, perché la vita non si deve togliere per soldi o per altro. Esiste l'altro mondo e quando uno va lì deve pagare tutto quello che ha fatto. Io su questo punto di vista la mia coscienza è pulitissima. Bene, io la ringrazio Giulio della sua testimonianza e ovviamente le auguro di continuare a camminare sui binari di legalità. La puntata si avvia a conclusione, così come il nostro viaggio nel mondo del pentitismo dell''ndrangheta in particolar modo. Io dico grazie regia Valeria Bernardi, in studio Laura Fagin, e Roberto Galullo vi dà appuntamento a sabato prossimo per una nuova puntata di Guardie o Ladri. Anche a lei. Ora ci fermiamo un attimo per le informazioni sul traffico e torniamo subito da voi.